edizione. Sei 13 minuti e 30 secondi, eccoci qua per cominciare a raccontare questo giovedì. Però prima di andare a vedere quali sono i temi sulle prime pagine dei giornali, parliamo questa mattina di TV. Il premier Mario Monti sta vagliando i curricula arrivati a Palazzo Chigi per la designazione delle nomine del governo nel CDA della RAI. Avrebbe già fatto alcuni colloqui, vedremo che nomi spunteranno. Secondo fonti di Palazzo Chigi non sarebbero ancora arrivate le candidature annunciate da Michele Santoro e Carlo Freccero, però intanto di TV si parla e si parla molto, perché almeno una cosa è certa ed è che sul piccolo schermo una rivoluzione ormai è avviata e l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Calano infatti gli ascolti delle reti televisive generaliste, a favore ovviamente del satellite, ma sul fronte delle risorse invece sono ancora le più spendaccione Rai Mediaset e Sky Italia. Parole e dati del presidente dell'autorità per le comunicazioni Corrado Calabrò nella sua relazione di fine mandato. E allora, per parlare di calo di ascolti e di futuro della TV, la nostra Marta Cagnola ha parlato con due personaggi TV, Luca e Paolo. Noi a volte per ridere ci diciamo è tutto finito, sì. Ma perché, però, come dire, non c'è una fine senza un inizio dopo, si tratta solo di capire che tutto evolve molto più velocemente che un tempo. I cambiamenti 20 anni fa erano cambiamenti molto lenti, adesso stiamo ancora parlando della TV generalista quando, come dire, non solo c'è stato il dopo, ma si è già evoluto quello che c'è stato dopo. E quindi secondo me bisogna tentare in tutti i modi di tentare di rinnovare quello che c'è, capendo che però le regole in campo sono diverse, le variabili sono cambiate completamente. Basta vedere il bacino d'utenza del satellite. Prima edizione. Ed eccoci qua allora con i quotidiani, quest'oggi in edicola per raccontarvi la giornata di oggi. Vi faccio una carrellata di titoli, così già capite che il tema che domina è per tutti davvero lo stesso, almeno di alcuni quotidiani. Poi, come sempre, la rassegna stampa con Alessandro Milan, anche con gli altri quotidiani, ma il tempo in questo spazio è quello che è. Ma comunque è sufficiente per darvi una carrellata. La Repubblica, italiani, denunciate gli sprechi. Corriere della Sera, cittadini, segnalate gli sprechi. La Stampa, il governo, denunciate gli sprechi. Il Messaggero, segnalate gli sprechi sul web. Ebbene, il tema l'avete capito, è quello dell'appello lanciato ieri dal governo. Ecco i i poteri al commissario Bondi, leggiamo dalla Repubblica. Controllerà anche le ASL, ma intanto l'appello è arrivato agli italiani, è a disposizione, è già attivo. Abbiamo provato il sito di Palazzo Chigi per segnalare quelli che sono secondo voi gli sprechi nella pubblica amministrazione, perché il supercommissario possa provare a tagliare. Segnalazioni che non dovranno essere anonime, c'è un modulo da compilare, ma tant'è, anche così il governo ha invitato i cittadini a denunciare il cattivo uso dei soldi dello Stato, anche se il neo commissario Bondi avrà comunque poteri davvero amplissimi di intervento. E dalla Repubblica leggiamo il retroscena: il premier teme lo sgambetto del PDL, intanto segnala Francesco Bei. Monti è preoccupato, il premier ora inizia seriamente a pensare che il PDL non ce la faccia ad arrivare fino in fondo, e non tanto per colpa di Angelino Alfano, a cui il capo del governo concede la buona fede, ma sui ragionamenti privati, le paure dunque di Mario Monti, scrive la Repubblica. E allora ecco cosa dice invece Angelino Alfano, perché il Corriere della Sera l'ha invece intervistato, il leader del PDL Alfano: con Monti caso chiuso, i partiti però non si commissariano. Parlamento e i partiti non si possono commissariare, dice Alfano in questa intervista oggi al Corriere della Sera. Si stava creando una situazione paradossale: da una parte io, che ai comizi devo dar conto della scelta di sostenere il governo, e dall'altra il premier che... e puntini puntini di sospensione nell'intervista di Alfano al Corriere della Sera. Il nostro è un sostegno leale e responsabile, ma viene da un partito con identità e valori a cui non si può pensare di mettere il silenziatore. E dunque Alfano i malumori nel PDL non li nega, e retroscena probabilmente qualche verità la dice. Corriere della Sera, sulla quale scrive Francesco Giavazzi, che è uno dei diretti interessati, insieme ad Alberto Lesina. Buone intenzioni e acqua fresca, la difficile riduzione delle spese, scrive oggi sul Corriere della Sera. La spending review, e cioè l'analisi e revisione della spesa spesa pubblica ha partorito un timido topolino, un risultato quasi imbarazzante. Il governo sembra non rendersi conto che l'Italia rischia di avvitarsi in una spirale di tasse, recessione, deficit e ancora più tasse. Purtroppo i dati sulla crescita del primo trimestre potrebbero essere una brutta sorpresa per i mercati. Così il tema che è in maggiore evidenza, che è il più dibattuto, lo troverete sui quotidiani in edicola. Ma c'è anche un'altra questione: taglio centrale della Repubblica, i comuni licenziano Equitalia, raccogliamo noi i tributi, cresce il fronte degli enti locali ribelli, troppo severo l'esattore di Stato. Ecco la rivolta non solo contro l'IMU ma anche contro Equitalia più in generale e su proprio i comuni, titola quest'oggi il Sole 24 Ore, comuni e tasse, addizionali IRPEF e tariffe, ecco nuovi rincari dai comuni, scrive il Sole 24 Ore, le amministrazioni locali preparano altre imposte per compensare il mancato gettito legato alla casa, sì perché l'IMU dovranno riscuoterla ma sappiamo i fondi andranno allo Stato e quindi i comuni dovranno imporre nuove tasse per avere loro soldi in cassa, scrive oggi il Sole 24 Ore. Ecco perché si allarga la protesta anti-IMU con Monti che dice inaccettabile non pagare. Il testo unico dell'IMU con riordino di tutte le modifiche, vi ricordo, pubblicato oggi in allegato proprio con il Sole 24 Ore, come si paga. E intanto, sempre sul Sole 24 Ore, si guarda anche all'Europa. Europa divisa sulle proposte per Basilea 3, no dell'Italia alla mediazione della presidenza danese, l'Ecofin in stallo sulle regole bancarie, con in borsa le banche che sono a questo punto sotto tiro. Ma scrive anche Stefano Folli, per quanto riguarda la situazione invece del governo, come abbiamo sentito, alquanto tesa, soprattutto tra Monti e Alfano, elezioni e segni di nervosismo, essere maliziosi, si potrebbe pensare che la scivolata del governo al Senato, battuto ieri su un emendamento che riguarda le pensioni degli alti dirigenti, sia anche una risposta ai toni sferzanti usati dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di lunedì. Ecco che le tensioni diventano concrete, così scrive Stefano Folli sul Sole 24 Ore. Altra notizia in grande evidenza, ne parleremo tra poco a prima edizione nella seconda parte, insulti tra Hollande e Sarkozy, dividi la Francia, sei un bugiardo, il duello TV tra i due candidati francesi che si sfideranno domenica, questo è il titolo scelto dalla Repubblica, ma lo trovate ovviamente un po' dappertutto. Sarkozy Hollande, niente KO in TV, nel faccia a faccia, scrive la stampa, e ancora il Messaggero, Hollande-Sarkozy è duello finale in TV. Duello finale nel quale si è parlato anche di Mario Monti e di Silvio Berlusconi, che hanno fatto capolino nel confronto televisivo. Il primo, Monti, è stato citato parlando della necessità di introdurre la dimensione della crescita nel fiscal compact, il patto di bilancio dell'Unione Europea, ne abbiamo parlato anche in GR24. La figura di Berlusconi è stata invece al centro di un siparietto tra i due candidati. L'Italia è stata governata per anni da un tuo amico, ha detto Hollande rivolgendosi a Sarkozy, e poi via via è stato un crescendo. Allora ve lo facciamo ascoltare con una traduzione, poi però ci torneremo nella seconda parte di prima edizione. Intanto sentitelo. Un altro paese che è stato governato da un suo amico, Silvio Berlusconi, per molti anni, l'Italia. Anche in questo caso ci sono cose buone, cose cattive, ma anche lì c'è stata una gestione pessima. E poi l'Europa che non era pronta all'appuntamento. Allora, se sarò il prossimo Presidente della Repubblica, io voglio dare un altro orientamento all'Europa rispetto a quello che lei ha subito. Un minuto di risposta e poi parliamo alle questioni sociali. Dunque... tutto questo a livello europeo? Lei viene dal PPE oppure Berlusconi fa parte del partito popolare europeo, Berlusconi ha il suo partito. No, non ho ottenuto niente dalla Germania. Risponda alla mia domanda. Non sono un suo studente. Risponda alla mia domanda. No, risponderò dopo e che dirò quello che voglio dire. Berlusconi non fa parte del mio partito. A livello europeo, lei ha osato dire che non ho tenuto niente della Germania. Il governo economico, la presidenza stabile del governo economico, lo voleva la Germania. Io posso imputare questo alla sua incompetenza, non alla sua cattiva fede. Poi lei. L'avete sentito, è un estratto del dibattito ieri sera in Francia con Hollande e Sarkozy a rimpallarsi l'amicizia e la vicinanza più o meno a Berlusconi. Naturalmente è stato solo un tema collaterale, ne parleremo comunque più avanti, questo intanto quello che è emerso ieri sera. E allora torniamo però sui quotidiani, altre notizie in evidenza sempre dall'estero. Sulla Stampa c'è una curiosità, c'è un'intervista alla sorella di Barack Obama, a Uma, che svela in un libro, un Obama inedito, A caccia delle radici, quando Barack mi chiedeva di papà. Anche qui siamo ad elezioni molto vicine, Obama punta su tutto, anche sulle sue radici, e allora anche qui il libro, non a caso che arriva in questo momento, della sorella di Barack Obama. Uma e Barack erano ragazzi, faticavano ad arrivare alla fine del mese, ma quella era la prima volta che suo fratello americano visitava il Kenya. Barack mi chiedeva di papà, il libro che uscirà su Barack Obama. Altre notizie sempre dall'estero invece: taglio basso del Corriere della Sera, la resa di cene degli Stati Uniti, il dissidente cinese che lascia l'ambasciata e denuncia minacciata mia moglie, una storia questa destinata sicuramente a non chiudersi in fretta, che sta creando nuove tensioni tra l'ambasciata americana e Pechino. E poi ancora a fianco la notizia, ve l'abbiamo data ieri mattina in realtà dalla rassegna stampa online, questa mattina arriva anche sul cartaceo: se vuoi donare gli organi puoi dirlo su Facebook, la nuova opzione e i dubbi dei giuristi. In 100.000 l'hanno già fatto, gli utenti di Facebook di Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi e Australia possono scegliere sul loro profilo l'opzione che permette di segnalare se si è donatori di organi, ma ci sono appunto i dubbi e molti dei giuristi. Taglio basso del Messaggero invece, una storia tutta italiana che riguarda il Festival di Roma. Miller non vuole più l'auditorium, scoppia il caso della sede del Festival. Per il Festival di Roma senza pace, ancora senza date, senza programma, leggiamo dal Messaggero, spunta l'ennesimo progetto alla vigilia del CDA di domani, forse decisivo, e a questo punto si potrebbero cercare anche luoghi alternativi alla sede storica disegnata da Renzo Piano. C'è una notizia di cui ancora non vi ho parlato, c'è sulle prime pagine dei giornali, non preoccupatevi, è della svolta per il campionato che sembrava ormai in mano alla Juventus, e invece ieri sera tutto ribaltato, perché torna in corsa il Milan. E allora, Corriere della Sera, l'immagine è quella di Buffon, Juve fermata dal Lecce in 10, il Milan ora è a un solo punto, l'errore di Buffon che riapre il campionato, scrive Mario Sconcerti, un clamoroso errore. E poi l'altra vicenda di ieri sera, vale a dire Delio Rossi, l'allenatore della Fiorentina, che prende a pugno un suo giocatore, Ljajic, appena sostituito, che aveva risposto applaudendo. Il tecnico naturalmente è stato esonerato, non è stata una bella scena. E allora la Gazzetta dello Sport, Delirio Rossi, questo è il titolo, e l'altro titolo è la paperissima Buffon con il sogno Milan. Parleremo anche di questo nella seconda parte di Prima Edizione, una piccola pausa e riepiloghiamo le notizie di oggi. Prima Edizione. Ed è il momento allora di tale incontro luce, vi ricordo anche oggi dedicata alle amministrative in vista delle elezioni di domenica. Italia in controluce. È 3 maggio, l'Italia che si sveglia, l'Italia in diretta. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. È la quarta puntata dell'inchiesta d'Italia in controluce sulle elezioni amministrative che si svolgono il 6 e 7 maggio in Italia. I partiti vanno dunque al voto nel momento più difficile dopo quella d'oggi del loro rapporto, della loro credibilità nei confronti dei cittadini. Sentiamo il reportage di Cristina Campinelli. Con questa legge elettorale, con l'UDC che gioca a dividere i moderati, con la Lega messa così, rischiamo di perdere le elezioni. Questo pensiero, sintesi perfetta e brutale, pare sia stato espresso da Silvio Berlusconi ai suoi dirigenti di partito. L'idea non è balzana e non è tanto lontana dal vero, almeno se stiamo ad ascoltare i sondaggisti. SVG ha elaborato un interessante sondaggio sulle intenzioni di voto. Ecco cosa è emerso, ce lo racconta il suo presidente Roberto Weber. Lì ci sono due elementi, se vuole, di effettiva novità: una piccola ripresa, consolidamento ripresa del PDL, che sale al 24 e 25, sfiora il 25%, è un elemento che secondo noi è consolidato e ce l'abbiamo da parecchio tempo, che è quello di 5 Stelle Grillo, no? No, poi cosa c'è di nuovo? Di nuovo c'è che sì, questo è l'elemento nuovo, anche questo relativo, hanno segnalato in altri, siamo quasi ormai al 50%, il 49.9% che ha difficoltà a collocarsi, perché c'è un 30 che dice sono indeciso, non so per chi votare o non dico per chi voterò, e c'è invece un cospicuo 18.5 mi pare, o 18.1 che dice comunque mi asterrò. Ecco, questa astensione così alta dichiarata nei sondaggi non c'era stata mai. Dunque, le amministrative valgono come sempre un po' di più di quello che sembra. In questo caso, ad esempio, serviranno a capire chi governerà dopo Monti. Ignazio La Russa è il coordinatore nazionale del PDL. Sentiamo che cosa ne pensa. Per noi, dal punto di vista delle elezioni amministrative, non cambia assolutamente niente, anche perché in nessuna città capoluogo correvamo insieme alla Lega. Avevamo rinviato semmai al secondo turno, al ballottaggio, l'eventuale accordo. Per le amministrative, il PD a livello locale ha deciso di fatto un'apertura all'UDC in molti comuni, sia in Puglia che in Veneto. In Veneto, addirittura, ci saranno situazioni quasi al limite. A Jesolo, 25.000 abitanti, il PD sosterrà la candidatura del PDLino Valerio Zoggia. A Thiene, 23.000 abitanti, il PD si allea con il PDL per sostenere il candidato dell'UDC Gianni Casarotto. Cose che accadono, ne chiediamo conto a Rosanna Filippin, segretaria del PD nel Veneto. Nel Veneto ci sono molte amministrative, vanno al voto un paio di capoluoghi, il principale è Verona, ma c'è anche Belluno e diversi centri minori. In queste amministrative il quadro delle alleanze è molto articolato, ad esempio nelle situazioni più significative, cioè Verona e Belluno, il Partito Democratico guida delle coalizioni alternative ai candidati del PDL e della Lega. Poi ci sono delle situazioni minori in cui il Partito Democratico contribuisce, anzi meglio, è il protagonista di progetti civici che alcune volte hanno trovato l'intesa con delle forze esterne al centro-sinistra, soprattutto l'UDC e il Terzo Polo, ma in qualche caso, ripeto, situazioni minori anche con il PDL. Le prossime amministrative saranno, per dirla in politichese, un laboratorio dunque. Per gli elettori si tratterà in alcuni casi dell'ennesima disillusione. Per i partiti politici sarà come sempre una tappa per capire dove soffia il vento. In Italia in controluce torniamo oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24. Grazie dunque a Daniele Biacchese. Alle 13.30 continueremo a parlare delle amministrative in vista del voto di lunedì. Nel frattempo allora c'è un'ultima notizia innanzitutto per cominciare, riguarda quello che ormai è un difficile caso internazionale, vale a dire la vicenda del dissidente cinese Chen che si era rifugiato nell'ambasciata americana e poi ha deciso di lasciarla. Ebbene, funzionari dell'ambasciata americana di Pechino battono ora le agenzie, oggi si sono recati all'ospedale per verificare le sue condizioni. Il dissidente aveva affermato di sentirsi abbandonato dagli Stati Uniti dopo aver accettato di lasciare l'ambasciata, ricordiamo era fuggito dagli arresti domiciliari, si era rifugiato nella sede diplomatica americana 6 giorni fa ricevendo garanzie di protezione, ma dopo aver saputo che la moglie era stata minacciata ha deciso di lasciare l'ambasciata americana dicendo mi avete abbandonato questa mattina la visita. Allora, queste le ultime notizie appena battute dalle agenzie, parliamo di altri avvenimenti che ci attendono nella giornata di oggi. Oggi il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri sarà a Locri dopo le dimissioni in massa paventate in seguito alle minacce giunte al primo cittadino di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta. Ne abbiamo parlato molto a Radio 24. Allora, io saluto invece il vicepresidente dei giovani per la Locri, Emanuele Capogreco. Buongiorno. Il ministro Cancellieri sta per arrivare nella Locride dopo la lettera dei sindaci che chiedevano aiuto allo Stato dopo le intimidazioni che sono arrivate, però nella Locride ci siete anche voi, che la vostra battaglia l'avete cominciata molti anni fa, fu l'inizio della riscossa della Locride. E allora proprio con voi vogliamo parlarne, innanzitutto per chiedervi secondo voi cosa vi aspettate dal ministro Cancellieri oggi. Beh, innanzitutto la ringrazio per averci tenuto in considerazione, considerando appunto che nasciamo nel 2004 e quindi abbiamo un po' di, diciamo, di anni di la battaglia l'avete cominciata prima. Sì. Ci aspettiamo molte cose dalla Cancellieri. Innanzitutto per noi rappresenta comunque un'attenzione maggiore da parte dello Stato centrale per questa zona, su questa comunità che è isolata sia geograficamente. Probabilmente la Cancellieri stessa si renderà conto di come già è difficile arrivare, malgrado ovviamente un'autorità di Stato viaggi molto più comoda di un normale cittadino, ma già questo è il primo impatto che avrà con il nostro sistema dei trasporti, sicuramente sarà una prima presentazione della zona. Che ne pensate dei vostri sindaci? I nostri sindaci fanno un lavoro eccellente certe volte, spesso e volentieri da soli. Ci rendiamo conto di quanto si sforzino, ovviamente non tutti, non si può fare tutto al buon fascio, ma di quanto si sforzino per poter rendere normale una vita qui, non sempre sia normale. Cosa vi rende anormali? Un esempio sciocco dei giovani, la possibilità di viaggiare. È complicatissimo per noi poter raggiungere, figuri Roma, figuri il resto del mondo. Parliamo di lavoro, perché il dato è da record, con un tasso di disoccupazione al 9,8%, quella giovanile è arrivata al 36%, sì, al 36%. Per i giovani. Lì nella Locride cosa significa? Nella Locride significa che questo dato è probabilmente molto più alto. Tanto per cominciare, il tasso di scolarizzazione effettivamente è molto alto, ma ci si trova a dover andarsene per poter continuare gli studi o al limite per poter lavorare. Chi rimane qui difficilmente riesce a trovare una sistemazione. Molti di noi sono ritornati, molti di noi stanno cercando, perché purtroppo non riusciamo a trovare nulla. Stiamo cercando di costruirci un futuro qui. Non molliamo, però effettivamente una visita come quella di oggi ci dà molta speranza per il futuro. Incontrerete anche voi la Cancellieri? Sì, dovremmo incontrarla. Tra l'altro siamo molto contenti perché soprattutto il Ministero dell'Interno ha un occhio di riguardo nei confronti di noi giovani con l'approvazione di diversi PON. PON sono appunto i piani per la sicurezza che ci garantiscono degli investimenti mirati o centri di aggregazione giovanili che sono stati approvati in questi giorni, nei giorni precedenti, e che vanno nella direzione che noi appunto ci aspettiamo, quello di avere una maggiore capacità sia di ricezione sia di comunicazione con il resto del mondo. Sarà una giornata allora in cui si parlerà anche di voi. Nel frattempo grazie per essere stati con noi. Di nulla. Vedremo che succederà, voltiamo ancora pagina, ci scapita spesso a prima edizione, cambiamo davvero tema, parliamo di calcio questa mattina, lo facciamo pochissimo ma vale la pena oggi perché è stata la serata che non ci si aspettava per il calcio italiano, con la Juventus che pareggia a Siena e il Milan che riapre la corsa a scudetto vincendo con l'Atalanta. I rossoneri sono a un solo punto dalla capolista e allora facciamo un excursus della serata con le parole di Conte nel dopopartita. Ma questo è il calcio, è stato molto rocambolesco, no? Quello che è accaduto stasera, però ribadisco che questo è il calcio, quindi sono stati già episodi in passato di questo genere e oggi l'abbiamo beccato noi in maniera tra virgolette negativa. Ci sta, dispiace perché però è un ulteriore motivo di crescita da parte nostra, perché comunque ci troviamo in una situazione sicuramente che a inizio campionato avremmo messo 100.000 firme per trovarci a due partite dalla fine con un punto di vantaggio inevitabile, che c'è il rammarico perché oggi potevamo mettere comunque una serie una serie ipoteca, no? sullo scudetto, però è successo, dispiace, però bisogna guardare avanti sapendo che questo è un gruppo che quest'anno comunque sta facendo cose straordinarie. Ogni tappa è un percorso di crescita, le ultime due partite saranno un percorso di crescita. Se saremo bravi a vincerle tutte e due avremo meritato lo scudetto, altrimenti avranno meritato gli altri. Sfida all'ultimo, vedremo se arriverà lunedì il verdetto. Nel frattempo, se il verdetto in Italia non c'è in Spagna, perché il Real Madrid è campione di Spagna grazie alla vittoria per il 3-0 sul campo dell'Athletic Bilbao. A due turni il Real ha 7 punti di vantaggio, quindi irraggiungibile. Per i merengue è il 32esimo titolo, ma per Mourinho è il primo in Spagna, dopo quelli però di Portogallo col Porto, di Inghilterra col Chelsea, in Italia con l'Inter, campione in 4 paesi. E allora, a proposito invece di altri paesi europei, tra poco parleremo ancora di Francia col duello TV ieri sera tra Sarkozy e Hollande. Prima il traffico per chi alle 6:44 è già in macchina. Prima edizione. 45 minuti. Storicamente il faccia a faccia al duello televisivo tra i candidati francesi in corsa alla presidenza non è mai stato particolarmente decisivo. Nel 74, anni del primo dibattito tra Valéry Giscard d'Estaing e François Mitterrand, e quello del 2007 tra Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal, il candidato in testa nelle intenzioni di voto è sempre arrivato all'Eliseo, malgrado in realtà abbia fatto una pessima figura nella performance televisiva. Allora, gli ultimi sondaggi in vista del ballottaggio vedono il leader socialista Hollande in vantaggio con il 53% sul presidente uscente del 46,5%. E sentiamo che è successo allora nel dibattito TV ieri sera. Laura Bettini. Buongiorno. Sì, se quelli sono i precedenti, allora forse non sono di buon auspicio per Hollande, che in realtà da questo dibattito televisivo non esce vincitore, nel senso che non è stato per lui un trionfo, ma sicuramente non è stata una sconfitta. Se poi si considera che si partiva con Hollande in vantaggio, allora insomma le posizioni restano sostanzialmente invariate. Hollande questo dibattito se lo porta a casa e Sarkozy resta sulle posizioni che aveva. Tra l'altro lui, Hollande, che è sempre stato accusato durante la campagna elettorale di essere un budino, tra virgolette, cioè troppo morbido, questa volta è invece passato all'attacco e più volte insomma ha reagito alle provocazioni di Sarkozy, che addirittura a tratti è parso furente, insomma, tanto da rivolgersi all'avversario chiamandolo piccolo calunniatore e tutta un'altra serie di appellativi che oggi i quotidiani francesi riportano, un florilegio praticamente. La tensione alle stelle, provocazioni in libertà, qualche insulto, una maratona che doveva durare 2 ore e mezza è diventata invece una marcia longa di 3 ore. Sentiamo qualche momento di tensione che appunto arriva dal dibattito di 3 ore di ieri sera. Quand le prix des carburants est au plus haut, Carrefour choisit de vous garantir le prix. Questo è il passaggio precedente, quello, cioè evidentemente un passaggio pubblicitario. Tra poco inizia, tra poco si sentiranno le voci. Sentiamo. Di Sarkozy e di Hollande. C'est un mensonge. Lequel? Quand vous dites, eccoli. Je suis toujours content. Ah bon, alors moi, c'est partir que je ne prends pas mes responsabilités, c'est un mensonge. Donc vous êtes eccoli qua, insomma, si sente, si interrompono, si parlano uno sull'altro, tutt'altro che un composto dibattito politico. Infatti la partenza è stata composta, poi via via il dibattito si è animato, Sarkozy si è scaldato, tutti sottolineano oggi come ha cominciato a gesticolare mentre Hollande restava impettito. Allora, i due personaggi hanno mantenuto un po' quelle che sono le loro peculiarità. Allora, io saluto anche da Parigi Marco Mussanè del Sole 24 Ore, benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto io ti chiedo secco, un voto ai due, Sarkozy, come ne è uscito? 6,5. Un 6,5. E Hollande, secondo te? 7. Allora, una netta vittoria tu la dai ad Hollande, però, no, già, però non un voto pieno. Non un voto pieno, esatto, ma poi soprattutto già tu ieri ci dicevi che secondo te in realtà sarebbe emerso nulla di più che le loro personalità e avrebbe spostato poco. A dibattito invece ascoltato, sei ancora di questo parere, Marco? Sì, direi di sì. In realtà darei 7 a tutti e due dal punto di vista del giudizio esclusivamente sulla prestazione di ieri sera. Secondo me Sarkozy merita un voto un pochino più basso, perché è quello dei due dal quale ci si aspettava di più ieri sera, essendo il candidato che aveva il problema di recuperare voti. E comunque sì, io continuo a pensare che dibattito non sposterà, che sia concluso poi appunto con un sostanziale pareggio, non sposterà voce, o comunque non in quantità tale da modificare l'esito del voto di domenica. Direi che Sarkozy è partito bene, meglio di Hollande, nella prima parte dedicata ai temi economici, in cui ha difeso il suo bilancio con efficacia, sembrato tranquillo, preciso, ben preparato sulle cifre. E Hollande ha avuto il merito di essere un buon incassatore, in qualche modo lasciar passare la tempesta iniziale e poi andare al contrattacco al momento opportuno. Ha ben gestito la seconda parte del dibattito, quella dedicata ai temi più sociali, più diciamo politici, istituzionali, e direi che alla fine, poiché nella testa della gente rimane probabilmente la parte finale del dibattito, alla fine l'impressione è stata quella di un Hollande arzillo, brillante, in forma, e di un Sarkozy un pochino stanco, un pochino prostrato, direi quasi rassegnato. E forse pronto anche a incassare meno le provocazioni? Sì, anche se su questo Hollande si è fatto le ossa in 11 anni di guida del Partito Socialista, dove quanto a incassare, a gestire situazioni complesse, a rintuzzare gli attacchi. Sì, insomma, sotto attacco c'era un po' più abituato. Senti, una battuta veloce. Berlusconi, comparso così nel dibattito, che ti è parso? Bah, a un certo punto... perché se lo sono rimpallato, amico mio, amico tuo, no? Vota sì, per te, vota per me. A un certo punto ha citato le pessime performance dei governi socialisti di altri paesi, a quel punto Hollande ha ribattuto che il suo amico Berlusconi in realtà in Italia aveva combinato disastri. Ma perché secondo te tirarlo fuori? Perché come hanno tirato fuori Zapatero, hanno tirato fuori il governo socialista greco, insomma con l'Europa, con i colleghi europei bisogna confrontarsi, si parlava di altri paesi europei, è stato fuori Berlusconi, non credo che ci fosse un obiettivo specifico, insomma ha colpito più noi che i francesi. Sì, certamente. Grazie Marco Mussani. Allora Laura, d'accordo anche tu? Direi che questo sì è quello che almeno posso leggere sulla stampa francese. C'è da dire che molti sottolineano questo ritornello moi président, quindi io presidente, che tutti dicono essere il tormentone. L'ha ripetuto talmente tante di quelle volte Hollande che ormai non può che funzionare. Grazie Laura Bettini, grazie a Marco Mussani. 6:52 minuti, noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24, ripartiremo anche lì da questi temi. Nel frattempo un quadro già ve l'abbiamo dato, come sempre con Prima Edizione. Resta Peter Bescatpè, grazie a Diego Rovelli in redazione. Ci risentiamo tra poco. Buon giovedì da Anna Migliorati.